Salva Danaio con Valeria De Rosa. Ben ritrovati, ancora un buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando. Nuovo appuntamento per Salva Danaio, ultima puntata di questa settimana. Come spesso accade il venerdì, parliamo di mercati, di borsa, di che cosa sta succedendo sui listini, intorno ai listini, che cosa li sta influenzando e verso cosa andiamo, quindi la fine dell'anno che cosa porterà. Cominciamo dal vedere che cosa sta succedendo in questo momento. Un'apertura molto cauta, debole questa mattina per le piazze del vecchio continente, nonostante una chiusura positiva di Wall Street. Il Dow Jones ieri ha guadagnato il 2,08%, il Nasdaq il 2,42%, lo Standard & Poor's ha chiuso in progresso dell'1,92%, e questa mattina anche i listini asiatici hanno chiuso ampiamente con il segno più. E invece in Europa, in questo istante, Parigi cede uno 0,08%, Francoforte guadagna uno 0,04%, poco meglio fa Londra che guadagna uno 0,25%. Milano è piatta, sia il FTSE All Share che il FTSE MIB. Velocemente sul listino principale, il miglior titolo è il Banco Popolare, guadagna il 4,38%. Diciamo che il Banco Popolare si sta riprendendo dopo alcune settimane di ribassi ed è sospinto ancora dalle voci di vendita di EFI Banca a Barclays. Bene anche Prismian, più 3,21% all'indomani dei dati. Banca Popolare di Milano guadagna l'1,87%, Fondiaria Assai l'1,6% e STM l'1,34%. In fondo al listino invece troviamo Buzzi Unicem che cede il 2,45%, Pirelli il 2,43%, anche qui all'indomani dei dati che sono stati positivi, Campari cede l'1,48%, oggi debole anche Telecom Italia che cede l'1,4%. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,48,85 sul dollaro. Allora, con chi parliamo oggi di mercati, di borsa, di quello che sta succedendo? Ne parliamo con Francesco Tarabini Castellani, che è responsabile per l'Italia di Banca Vontobel. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. E stiamo aspettando di collegarci telefonicamente con Carlo Gentili, amministratore delegato di Nextam Partners, che si trova a Londra. In questo momento abbiamo qualche problema sulla linea, ma certamente ci raggiungerà. Prima allora di entrare nel vivo e capire appunto un po' che cosa sta succedendo su questi mercati, che a volte sono piuttosto nervosi e volatili, la nostra scheda. È iniziata la fase di correzione? Dopo il rally messo in atto dalle principali borse dai minimi di marzo ai primi di ottobre, sembrerebbe così. Il mese scorso è stato vissuto a due velocità dai mercati azionari internazionali, che nella prima parte hanno continuato a guadagnare terreno, arrivando a segnare nuovi massimi dell'anno, salvo poi stornare in maniera anche veloce nella seconda parte. Questo malgrado una stagione dagli utili societari decisamente positiva e rilevazioni macroeconomiche sostanzialmente in linea con le previsioni degli analisti. I grandi investitori negli ultimi mesi sembrano però essersi divisi tra coloro che ritengono che ci sia ancora spazio per una crescita e quelli che mettono in guardia dal rischio di una correzione più o meno imminente delle borse globali. Il paniere delle blue chip di Piazza Affari da inizio anno ha guadagnato oltre il 24%, ma dai minimi raggiunti lo scorso 9 marzo ha quasi raddoppiato il suo valore. L'attesa per una pausa e un ritracciamento, anche se limitati, non suona dunque strana. Anche perché a crescere non sono stati soltanto i mercati. La liquidità si è riversata infatti su tutte le classi di investimento. I titoli di Stato sono andati a ruba ovunque, così come i corporate bond tornati alla ribalta. Ma anche le materie prime, guidate dall'oro che ha raggiunto nuovi record storici e dal petrolio. (349) 238 6666 per i vostri sms, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Nel frattempo siamo riusciti a collegarci telefonicamente anche con Carlo Gentili, amministratore delegato di Nextam Partners. Buongiorno, benvenuto anche a lei. Grazie, buongiorno a voi. Allora, sentivamo nella nostra scheda, si faceva implicitamente una domanda che quindi giro a entrambi i nostri ospiti: c'è spazio ancora per crescere anche in vista di quello che generalmente è il rally di fine anno, o ci si deve aspettare una correzione? Dottor Tarabini Castellani. Ma noi riteniamo che il mercato, appunto, pensa che sia un po' cambiato nelle ultime settimane e in particolare che stia volgendo al termine un'operazione di carry trade che poi magari spiegheremo agli ascoltatori, sì, certo, cosa significa, che era iniziata in marzo con la ripresa delle borse e in questo senso che avremo una rotazione da un mercato che su un mercato che magari potrà continuare a crescere, ma specificamente solo su alcuni settori. Dottor Gentili, la stessa domanda anche per lei. Ma guardi, è difficile fare previsioni così a breve, diciamo, così a breve scadenza, non so cosa possa accadere, ma diciamo di sicuro i mercati attualmente trattano su valutazioni assolutamente ragionevoli. Comunque non dimentichiamoci quello che è successo negli ultimi due anni, cioè le borse hanno perso più di metà del loro valore, sì, ne hanno recuperato solo una parte nonostante siano salite molto da marzo. Credo che i fondamentali stiano recuperando, quindi diciamo impossibile, letteralmente impossibile fare una previsione di così breve periodo. Del resto non consiglierei a nessuno di comprare titoli per un mese, due mesi, tre mesi. Però diciamo per un investitore che ha un po' di sangue freddo e un po' di lungimiranza, credo che tuttora le azioni, sicuramente più le azioni che le obbligazioni, hanno possibilità di crescere. Ripeto, non da qui a Natale, non ho la più vaga idea di cosa succede qui, certo, a Natale, ma diciamo in un ragionevole periodo di tempo preferirei avere azioni che obbligazioni. Soprattutto che obbligazioni corporate. Il dottor Gentili parlava di sangue freddo, che è anche una caratteristica un po' difficile, perché sappiamo che molto spesso la psicologia gioca a brutti scherzi anche sui mercati finanziari. Però volevo fare con voi una considerazione: i mercati hanno ripreso a correre verso marzo, anticipando anche un po' quella che è stata la, se non proprio ripresa, quantomeno lo stop della caduta dell'economia reale. Poi adesso abbiamo dei segnali di miglioramento, di oggi la notizia del superindice OCSE, che comunque certifica delle previsioni sul futuro, però dà dei buoni segnali anche soprattutto per l'Italia. A questo punto uno stop o una correzione dei listini dovrebbe far pensare anche, come dire, a un periodo di parziale tranquillità per l'economia, oppure no? Dottor Tarabini. Beh, in realtà, come sappiamo, i mercati anticipano largamente, sì, quello che è la ripresa economica. In questo caso addirittura però possiamo dire che forse non è stato neanche un anticipare la ripresa economica, ma è stato uno speculare nella ripresa economica. In questo, sì, senso possiamo ricollegarci a quello che accennavo precedentemente, forse spieghiamo agli ascoltatori cosa noi riteniamo che sia successo. Sì. In marzo le banche centrali mondiali, ma in particolare quella americana, hanno fornito liquidità a tassi zero, il che significa che gli operatori, principalmente le banche, potevano indebitarsi a tasso zero e utilizzare questi soldi, questi investimenti, come meglio reputavano. Questo è stato fatto principalmente dalle banche d'affari, quindi i trader e anche parte gli hedge fund, investendo non solo in America ma anche al di fuori dell'America, in altre valute. E sì, infatti abbiamo assistito ad un'interessante crescita dei mercati mondiali e in particolare dei paesi emergenti, curiosamente accompagnata da un indebolimento del dollaro. Mm-hmm. Questo perché è avvenuto? Perché le banche hanno preso questi dollari, li hanno venduti acquistando valute estere e hanno iniziato a investire su questi terzi mercati, quindi cresceva la borsa e calava il dollaro. Questo è andato avanti da marzo a ottobre, come avete detto, le borse hanno fatto l'S&P 500 il 60%, dal 666 al 1066 circa di oggi, sì, e con una grossa diversità di quali titoli hanno sovraperformato, in particolare titoli ciclici, quindi anticipatori del ciclo, e titoli finanziari che avevano delle valutazioni bassissime. Oggi riteniamo di aver preso atto che gli investitori istituzionali abbiano iniziato a smontare queste operazioni, il che vuol dire vendere azioni sostanzialmente pian pianino e ricomprare il dollaro. Infatti abbiamo avuto anche la settimana precedente una correlazione inversa nell'altra direzione tra il mercato azionario e il dollaro. Noi reputiamo che Vontobel pensa che i prossimi mesi saranno connotati da un mercato diverso. Continuiamo ad essere positivi sull'azionario, ma riteniamo che ora gli operatori che si affacceranno sul mercato saranno le banche, non più per la loro tesoreria, bensì tramite i soldi degli investitori, che oggi, rincuorati da una crescita dei mercati, sono più disponibili a vedere un investimento azionario. Queste grosse banche, e arrivo alla conclusione, diciamo i portafogli, quindi parliamo di gestioni patrimoniali, di fondi, di unit e altri prodotti gestiti, principalmente riteniamo che andranno su titoli ad elevata qualità e più difensivi, quindi in questo senso beni di consumo piuttosto che utilities o farmaceutici. 349-238-6666 per i vostri sms, 800-24-0024 per intervenire in diretta. Come dicevamo in apertura di programma, purtroppo abbiamo qualche problema sulle linee telefoniche, in questo momento purtroppo il collegamento con il dottor Gentili è caduto, stiamo cercando di ripristinarlo. Io però volevo girare al dottor Tarabini Castellani la domanda di Piero da Taranto, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie, ci dica tutto. Allora, so che non si possono fare i nomi delle società quotate in borsa. Esatto. Però, però io volevo sapere dai vostri esperti l'eventuale scenario che si presenta da qui, da gennaio a 3 anni del settore bancario, specialmente per i gruppi che si stanno ristrutturando. Italiani. Allora, dottor Tarabini Castellani, una previsione piuttosto ampia, quindi nel medio-lungo periodo, quantomeno per il settore, se è possibile farla. Assolutamente, noi abbiamo una visione abbastanza chiara sui settori ciclici e i settori anticiclici, quindi difensivi. Il settore finanziario è un po' un settore non ciclico, nel senso che ha delle dinamiche particolari. Il Vontobel ha investito ampiamente in questo settore fino ad anni fa, non perché abbiamo previsto la crisi, ma perché abbiamo individuato un cambiamento dei modelli di business che sono andati ad investire tramite anche leva in mercati sempre più rischiosi, e poi conosciamo bene cosa è successo con il discorso dei mutui. Ora, ammetto che attualmente per quanto riguarda i finanziari siamo abbastanza scarichi di titoli. Il problema qual è? Nonostante vi siano dei titoli che hanno, in particolare anche italiani, che hanno ripreso in modo estremamente importante, esistono ancora diverse incognite a livello mondiale. Vi sono infatti, vi è ancora il problema di diversi crediti che con la mantenersi di una situazione di disoccupazione mondiale estremamente elevata e di crisi comunque in cui versano diverse aziende, sì, potranno rimanere e diventare inesigibili, quindi a livello finanziario anche per l'attività classica vi sono delle problematiche. Ricordiamo che le banche che hanno manifestato, hanno così raggiunto questi risultati incredibili di diversi miliardi di dollari, hanno fatto l'utile da attività di trading, quella che accennavo precedentemente. Sì, sì. Quindi sulla salute complessiva del sistema finanziario non siamo ancora, per un investitore che volesse fare un investimento diciamo tranquillo e sicuro, certo, così positivi. Vi sono altri settori che secondo noi consentono una maggiore sicurezza, quindi come dicevo precedentemente beni di consumo, utilities o farmaceutici. Senta, dottor Tarabini Castellani, proprio a proposito del discorso che lei faceva prima sul carry trade, c'è chi ci scrive al 349-238-6666 chiedendo, ma di questi giochi speculativi sicuramente se ne avvantaggia qualcuno e quindi qualcun altro ci perderà. È così la visione? Assolutamente, è un'assoluta verità. Se ne avvantaggiano le banche, le grosse banche, i grossi trader che aiutate dal governo nella fornire liquidità a tassi zeri sono riuscite in questo modo a rimettere in sesto le loro finanze abbastanza disastrate, e chi paga questo conto alla fine è il pubblico, sono i consumatori, perché alla fine ricordiamoci che i governi questi aiuti li prendono incrementando l'indebitamento a livello mondiale a livelli ragguardevoli, diciamo. C'è anche chi ci scrive, proprio anche a proposito della liquidità, questo rally poi di fine anno che di solito si verifica, sicuramente ci sarà anche quest'anno, perché continua ad esserci questa liquidità a tasso molto basso. Sia la Fed che la BCE hanno confermato il costo del denaro, un costo del denaro bassissimo, quindi voglio dire ancora molto redditizio per le banche prendere a prestito questo denaro. Sì, queste operazioni in realtà stanno un po', noi riteniamo, cominciano ad essere chiuse. In questo senso si è notata un po' in ottobre un'inversione di tendenza che si è acuita anche la scorsa settimana, e in questo senso è vero, vi è tantissima liquidità a livello mondiale, e questo è uno dei tre elementi per cui noi siamo favorevoli ancora al mercato azionario. Oltre a questo eravamo positivi per gli utili aziendali, che effettivamente più dell'80, vi è un indice che si chiama S&P Positive Surprises che addirittura è ai massimi storici dalla sua nascita del 92, che indica come più dell'80% delle società abbiano battuto le aspettative, che d'altra parte sappiamo erano estremamente basse. E quindi in questo senso vi sono diversi elementi a favore dell'azionario. Tuttavia le quotazioni non possono definirsi a sconto, cioè il mercato ha una valutazione corretta nel suo complesso. Senta, dottor Tarabini Castellani, dicevamo prima poi di interromperci per il meteo e per la pubblicità, ci sono sicuramente delle incognite che gravano sia in primis sull'economia reale e poi anche sui mercati. Dicevamo oggi è molto atteso questo dato sulla disoccupazione statunitense, secondo gli analisti dovrebbe attestarsi al 9,9%. Quanto pesano, e poi ci chiede anche un ascoltatore, quali sono anche le previsioni di inflazione? Quanto pesano queste incognite, come appunto il livello di occupazione, l'inflazione, ma anche gli alti deficit degli stati? Perché sappiamo benissimo che in questi mesi in molti, a parte l'Italia, ma insomma molti paesi hanno dovuto mettere in campo delle politiche economiche di un certo peso per proprio sostenere la crescita e l'economia. Pesano moltissimo, infatti. Fontobel ritiene, e questo è il terzo elemento di cui accennavo precedentemente, che è quello dei cosiddetti leading indicators, quindi degli indicatori di mercato. Sappiamo che la Banca Centrale Americana, nel ribadire una politica di tassi invariata, ha detto che se si manterranno livelli di disoccupazione e inflazione sotto controllo, i tassi rimarranno bassi a lungo termine, quindi da questo abbiamo un'idea di quanto importanti siano disoccupazione e inflazione. Con riferimento alla disoccupazione, anche negli ultimi giorni mi sono stati dei dati abbastanza positivi, sappiamo che è un indicatore che comunque risentirà della diminuzione degli investimenti che si è verificata negli ultimi mesi e sul quale non abbiamo un'esplicita valutazione, riteniamo che verrà lentamente riassorbita, però è probabile che il riassorbimento della disoccupazione procederà di passo in passo con una probabilmente lenta crescita economica. A livello inflattivo siamo abbastanza tranquilli, nel senso che Fontobel ritiene che nei prossimi mesi, se vogliamo anche nei prossimi trimestri, non sussistano timori inflattivi, casomai addirittura può rimanere ancora qualche pericolo di deflazione, ma su questo versante penso che possiamo stare tutti abbastanza tranquilli. Ancora, dottor Tarabini Castellani, è però diciamo da qualche parte arrivano considerazioni, osservazioni per cui è vero che l'inflazione dovrebbe essere mantenuta sotto controllo, però è anche vero che nei prossimi mesi, forse già a metà del 2010, la BCE potrebbe cominciare a rivedere la sua politica monetaria, quindi gradualmente aumentare questi tassi di interesse, e se come sempre avviene i mercati come dire scontano in anticipo queste decisioni, potrebbero già prevederle dall'inizio del 2010 o no? Sì, questo assolutamente. Adesso se vogliamo ricollegarci anche al discorso dell'investimento in obbligazioni, a livello obbligazionario Allora, se vogliamo fare un discorso un po' più tecnico, nel brevissimo termine, noi proprio questi giorni abbiamo addirittura allungato un po' la duration, quindi la durata dei nostri portafogli, pensando che vi sia ancora qualche possibilità di diminuzione dei tassi a lunga, data la situazione complessiva dell'economia in lento recupero. Da un punto di vista però di un investitore che magari prende oggi un titolo decennale o trentennale e lo tiene in portafoglio, assolutamente diciamo che sconsigliamo un atteggiamento di investimento di questo tipo, perché i tassi non potranno, da questi livelli bassissimi, altro che aumentare. Riteniamo però che questo aumento, certo, probabilmente sarà abbastanza, verrà probabilmente nella seconda parte dell'anno. Sarà molto importante vedere i prossimi mesi che conferme daranno per quanto riguarda principalmente l'attività di consumo. Tra l'altro, ovviamente, come piccoli risparmiatori, ma anche come detentori di mutui, ci auguriamo che ciò avvenga il più tardi possibile, anche alla fine del 2010 se è possibile, perché questo potrebbe aiutare ovviamente anche la domanda interna, perché nel momento in cui uno ha maggiore disponibilità sappiamo benissimo che è possibile aumentare e stimolare la domanda interna, cosa di cui in questo momento come dire, è un grosso problema anche proprio per il nostro paese, quindi sarebbe auspicabile che i risparmiatori avessero una ulteriore disponibilità nelle proprie tasche. Assolutamente, beh, posso proprio aggiungere a livello totalmente personale che io anche ultimamente ho tradotto larga parte del mio tasso variabile del mutuo in tasso fisso, se questo può essere una conferma di un'indicazione da seguire. Certo, volevo farle un'altra domanda proprio a proposito di come i listini poi recepiscono certi segnali e certi dati che vengono dall'economia reale, dati macroeconomici. Abbiamo visto negli ultimi tempi i segnali sono molto piuttosto discordanti, perché faccio un esempio per tutti: abbiamo visto il rialzo del PIL del terzo trimestre negli Stati Uniti, più 3,5%, un dato che neanche gli analisti si aspettavano. Poco dopo però il calo della spesa per i consumi degli americani di mezzo punto. Come, cioè, il nervosismo che si è respirato, perché poi anche questo c'è stato sui listini, deriva direttamente anche da questi dati che sono appunto piuttosto in contrasto? Questo è il terzo fattore che noi teniamo, appunto, cosiddetti leading indicators e tutti gli indicatori macroeconomici che noi osserviamo giorno per giorno e ora per ora. Purtroppo oggi è un mercato, quello azionario, che segue logiche più di liquidità, di trading, e questa, diciamo, operazione noi riteniamo di passaggio di smontare un po' queste operazioni di carry trade. In questo senso il dato macroeconomico è lo spunto per un ritracciamento del mercato piuttosto che per una sua ripresa. Complessivamente non è sufficiente però a dare un'indicazione ancora chiara sullo stato dell'economia, quindi guida un po', se vogliamo, la volatilità giornaliera, come sta succedendo, perché poi anche scorsa settimana abbiamo avuto tre giornate sostanzialmente negative: giovedì appunto il dato del PIL, venerdì abbiamo avuto di nuovo il fallimento di CITE, quindi che ha riportato un'ombra complessiva sul sistema internazionale. Dottor Tarabini Castellani, nell'ultima settimana abbiamo assistito a una ripresa del settore automobilistico, almeno da parte degli Stati Uniti. Abbiamo visto nell'ordine la Ford, che non ha avuto aiuti di Stato, è tornata all'utile, GM che ha annunciato che non vende Opel a Magna con grande disappunto della cancelliera Merkel, e poi la Chrysler, il nuovo piano messo a punto con Fiat, i nuovi modelli, insomma una ripresa in pieno stile per una invece industria che era già data per spacciata prima dell'estate. Questo in che modo sta influendo anche sul settore, ovviamente a livello di listini di mercato? Beh, senz'altro sono tutte notizie positive. È chiaro che le società che sono trovate sull'orla della bancarotta o addirittura praticamente in bancarotta e quindi aiutate dagli stati, poi hanno avuto una ripresa dei loro valori azionari assolutamente importante. Queste notizie sull'automobilistico sono molto importanti perché, come sappiamo, è uno dei settori industriali principali e anche segnale, diciamo, della ripresa a livello mondiale dei consumi, perché l'auto è uno di quei beni che l'investitore acquista solamente se ritiene di avere una solidità finanziaria sufficiente. Personalmente Vontobel diciamo che non predilige questo tipo di settore, in quanto è prettamente capital intensive, quindi ha bisogno di importantissimi investimenti di capitale, e poi sappiamo il problema di sovrapproduzione a livello mondiale, quindi sarà comunque un settore che continuerà ad andare avanti a logiche di ristrutturazione e di diminuzione della capacità produttiva. È sicuramente di accorpamenti più che mai, perché giustamente la produzione poi dovrà essere veicolata, settorializzata, quindi poche alla fine riusciranno a sopravvivere, come ci ha sempre ricordato negli ultimi mesi anche l'amministratore delegato della Fiat. Di fronte invece a questo settore, che almeno appunto negli Stati Uniti sta dando grandi segnali di ripresa, sempre dagli Stati Uniti abbiamo assistito al fallimento del gruppo SIT, una delle maggiori società finanziarie, il quinto più grande fallimento negli Stati Uniti come serie storica. Come dire, sono due facce della stessa medaglia. Ma il fallimento di CIT, che tra l'altro non ha impattato il mercato tanto per quello che ha significato, riporta all'attenzione uno dei temi che ci eravamo un po' scordati, anche perché forse si voleva che ce la dimenticassimo. Forse dopo tutto quel pessimismo qualcuno ha pensato di mettere da parte certi discorsi per far finta che non esistano. Assolutamente, io ho proclamato all'inizio, così esponendomi, che comunque rimaniamo abbastanza positivi sull'azionario, in particolare su certi settori. Tuttavia, parlando anche già del finanziario, ho detto che vi sono ancora delle incognite importanti. Parliamo per esempio del tema delle carte di credito, questo è un tema che è stato un po' accantonato. I consumatori, cioè i disoccupati, che ormai si aggirano intorno al livello e anche in alcuni paesi sopra il 10%, in Spagna siamo messi intorno al 20%, senz'altro impattano in modo estremamente importante sui crediti, che pian pianino sofferenti possono diventare inesigibili, quindi questa è ancora un po' una mina vagante. Dall'altra parte abbiamo anche scordato in modo totale tutti quei titoli cosiddetti spazzatura, quindi quei mutui cartolarizzati che sono stati inseriti in varie strutture e che però non sono scomparsi. Prima o poi purtroppo tutti questi, già si comincia a ventilare qualche ipotesi di reintrodurli in qualche modo sul mercato, però sappiamo bene che non è assolutamente ancora possibile, quindi ci sono senz'altro ancora delle incognite, in particolare nel settore finanziario, per cui... Certo, torneremo su questa questione dei derivati, prima però volevo lasciare spazio a Marco da Treviso, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Ci dica, grazie. Volevo fare una domanda a Tarabini, che stimo moltissimo, per quanto riguarda prima o dopo i tassi cresceranno da zero, cominceranno sicuramente ad aumentare, e come vede questa cosa in un futuro per il mercato obbligazionario? E seconda cosa, quando si leggono nei vari report dei vari giornali con le varie banche tipo Bank of America o altre banche americane fanno dei target price su dei titoli, volevo dire che sono le stesse banche che 6 mesi fa hanno perso miliardi di dollari facendo lo stesso lavoro. Cioè, come ci si può fidare di target dati su dei titoli da banche che 9 mesi fa hanno perso un sacco di soldi? Allora, dottor Tarabini Castellani. Allora, per quanto riguarda le obbligazioni, è un po' quello già che dicevo precedentemente, come investitore, a meno che uno non faccia il trader e quindi si senta talmente così in grado di forte di se stesso per poi chiuderle, come risparmiatore diciamo suggeriamo di stare su dei tassi sostanzialmente o variabili o comunque una duration abbastanza bassa, tra i 2 e 3 anni, se vogliamo anche dare un'indicazione un po' generale, che lascia il senso che trovo, perché non conosco quel profilo di ogni singolo investitore. Certo. Per quanto riguarda l'altro discorso, il nostro ascoltatore ha perfettamente ragione, questo è uno dei problemi e dei conflitti di interesse che riguarda il sistema bancario. Tuttavia, purtroppo noi stessi, Fontobel è una banca, quindi in piccola parte posso anche sentirmi chiamato in causa, se non altro come operatore finanziario, se non come singola realtà. Le banche e la finanza oggi sono imprescindibili. Quindi il mondo, se vogliamo i governi, senza salvare le banche non sarebbero riusciti a porre quelle fondamenta per poi in generare di nuovo una ripresa del ciclo economico. Certo. A livello del singolo investitore ci si può sentire così un po' presi in giro, un po' traditi, e devo mettere che in parte questo è anche spesso il caso. Sì, anche perché poi non è che poi siano intervenute così tante regole a disciplinare questo particolare conflitto di interessi. Salvatore D'Acosta, Giacomo, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno. Ci dica. Volevo salutare tutti gli esperti e farvi i complimenti per la trasmissione, che penso che in Italia ce ne vorrebbero di più. Di grazie, ci dica. Ecco, volevo sapere, io ho investito nelle commodity, se il probabile rialzo del dollaro può influire in che modo sul prezzo delle commodity, sia energy che non energy, chiaramente. Dottor Tarabini Castellani. Sì, adesso ho avuto un attimino un disguido. Si parlava di commodities. Di commodities, sì. Commodities. Se l'aumento del dollaro può influire. Allora, la variabile dollaro, ripeto, il dollaro crediamo che nelle ultime settimane sia aumentato proprio per lo smontare questi carry trade, quindi è una situazione contingente. A medio termine noi siamo abbastanza ancora negativi da tempo, tra l'altro, sulla valuta americana, in quanto la situazione di indebitamento complessivo del governo americano sarà uno dei fattori che non potrà consentire un dollaro molto forte. Sì. A livello di commodity, anche qua un po' esponendomi, noi direttamente abbiamo investito per esempio sull'oro quando era intorno ai $1,000 l'oncia, quindi già a livelli di tutto rispetto, oggi ha guadagnato ulteriormente rispetto a questo livello e riteniamo che comunque come risorsa di diversificazione possa continuare ad avere un suo senso. Vi sono anche grossissimi operatori internazionali che addirittura recentemente hanno smontato dei contratti di copertura dando un segnale di estrema fiducia verso la crescita dell'oro. Con riferimento al commodities in generale, sì, è un po' difficile generalizzare perché sono tanti, certo, tanti settori, per esempio a livello dell'agricoltore, quindi dell'agricoltura abbiamo investito precedentemente e ultimamente abbiamo consolidato le posizioni. Complessivamente rimane un settore che in cui nei prossimi mesi e il prossimo anno riteniamo possa far senso comunque diversificare. Oggi l'investitore, oltre diciamo col problema dei tassi a zero, deve trovare un modo per allocare al meglio il suo patrimonio. Certo, allora il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, io quindi saluto e ringrazio moltissimo il dottor Francesco Tarabini Castellani, responsabile per l'Italia di Banca Vontobel, ringrazio anche il dottor Gentili, amministratore delegato di Nextam Partners, anche se l'abbiamo perso in brevissimo tempo purtroppo a causa delle linee. A voi buona giornata e buon lavoro, in redazione ringrazio Gaia Romani e Alessandro Longoni, in regia Fabio Cantadori, l'appuntamento con Salvadanaio è per lunedì.